2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In onda la domenica, in questa nostra versione estiva, torneremo nella nostra versione autunno-inverno-primavera, chiamiamola così, di un'ora ogni settimana a partire dall'11 settembre, che non è proprio una data fortunatissima, comunque è venerdì 11 settembre, è il rientro del palinsesto autunnale anche per i programmi del weekend. Tra poco sarà con noi Nicola Pecile, che dalla metà di settembre sarà uno dei nuovi piloti della Virgin Galactic, quindi parleremo di spazio. Vi ricordo che siamo su Twitter, su Facebook, cercate Enrico Pagliarini oppure 2024, oppure potete utilizzare la nostra email 2024@radio24.it. Today 1 billion of us connected on Facebook. But what is a billion? Really, what is it? Quella che sentite è la voce del video di Facebook che annuncia che lunedì 24 agosto, per la prima volta nella storia di Facebook, il più grande social network del mondo ha registrato 1 miliardo di utenti connessi nello stesso giorno, pensate. La barriera del miliardo si era già avvicinata a giugno, quando il social network ha registrato una media di 968 milioni di utenti al giorno. Ricordiamo che secondo i dati finanziari aggiornati al 30 giugno, Facebook ha attualmente quasi 1,5 miliardi di utenti attivi, e probabilmente dal 30 giugno ad oggi questo miliardo e mezzo è stato superato. Gli utenti attivi sono gli utenti che si collegano almeno una volta al mese, tutto questo in 11 anni di vita di Facebook. Facebook diventa così sempre più importante come concorrente di Google, perché se così tanta gente rimane sul social network, maggiore è la quantità di pubblicità che Facebook riesce a vendere, e quindi in competizione con Google in modo particolare, che oramai è diventato il più grosso rivenditore di pubblicità al mondo, ma maggiore è anche l'importanza di Facebook come origine del traffico di internet. Sapete che molte pagine prendono origine da Google, uno fa una ricerca e poi da lì parte per andare su un sito internet. Allora, questa cosa succede sempre più spesso da Facebook, perché magari uno legge una notizia che viene postata da un amico e da lì clicca e poi va sul sito internet, quindi diventa sempre più importante. L'ultima notizia che riguarda Facebook, a proposito di competizione con gli altri giganti della Silicon Valley, è l'avvio di una fase sperimentale, per il momento solo nell'area di San Francisco, di un assistente virtuale, così come Siri o Cortana di Apple e Microsoft, e anche tutto il sistema di Google Now di Google. Quindi anche in questo settore, che è un settore molto promettente, quello degli assistenti virtuali che si basano sull'intelligenza artificiale e su tutte le informazioni che noi diamo ai vari siti internet, ai vari servizi di Google, Facebook, Microsoft e Apple, questo è un settore estremamente promettente, come dicevo. Prima delle nostre digital news, la vicenda di Ashley Madison, il sito di incontri extraconiugali attaccato dagli hacker di Impact Team, che poi hanno pubblicato su internet i nomi, le email e anche molti altri particolari di circa 32 milioni di iscritti al sito. Una delle ultime notizie riguarda Noel Biderman, che è il numero uno della società proprietaria del sito, società canadese, ha annunciato le dimissioni perché si è scoperto che anche lui usava il sito per tradire la moglie. Uno potrebbe dire, certo, l'amministratore delegato di un sito di incontri extraconiugali per adulteri, anche lui per testare il servizio fa così. Però il problema è che aveva sempre detto che invece non lo faceva, aveva sempre assicurato la sua fedeltà. La società, tra l'altro, pochi giorni fa ha messo in palio un premio di $500.000 canadesi, che sono 338.000 euro, per chi offre informazioni sull'identità degli hacker. Ma fino adesso nessuno si è aggiudicato questo premio. Le nostre digital news, notizie in breve della settimana. Digital news. Mercoledì 9 settembre Apple presenterà i nuovi prodotti a partire dagli iPhone 6S e 6S Plus. Potrebbero esserci novità anche su Siri, visto che nell'invito c'è scritto Siri, dacci un indizio, dacci qualche aiuto. E comunque un'altra novità, almeno di quelle che si sanno, per la prima volta lo streaming di Apple non sarà limitato ai dispositivi Apple, ma si potrà vedere anche col nuovo browser Edge di Microsoft disponibile su Windows 10. Digital News. È un problema di codec, non è un problema di scelte varie. Comunque, insomma, è una novità sicuramente interessante. A proposito di Windows 10, dalla data del suo rilascio, un mese fa, il 29 luglio, più di 75 milioni di dispositivi hanno effettuato l'aggiornamento al nuovo sistema operativo di Microsoft. Numeri sicuramente molto importanti, anche se ricordiamo che l'aggiornamento per chi ha Windows 7 o 8 è gratuito, quindi buona parte di questi 75 milioni sono utenti che non hanno pagato nulla. Quando tutto è gratis, naturalmente è molto facile fare l'aggiornamento. IDC ha pubblicato le stime di vendita dei wearable devices, cioè i dispositivi indossabili, nome col quale vengono identificati i braccialetti fitness o anche gli orologi, gli smartwatch. Bene, nel secondo trimestre in tutto il mondo ne sono stati venduti poco più di 18 milioni, quindi parliamo di numeri molto bassi, nulla rispetto ai 330 milioni di smartphone venduti nello stesso periodo, e quindi 18 milioni, 330 milioni, un mercato completamente diverso. Comunque, Fitbit, che è il numero uno, ha consegnato 4,4 milioni di pezzi nel trimestre. Apple, quindi l'Apple Watch, è stato venduto in 3,6 milioni di pezzi, quindi appena entrato in classifica, e Xiaomi ha venduto 3,1 milioni di pezzi. Considerando che Fitbit e Xiaomi vendono anche prodotti da alcune decine di dollari, molto economici, e quindi Apple Watch parte invece da 349 euro, beh, alcuni esperti dicono che Apple ha già stracciato tutti. Vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. Parliamo di Charlie Miller e Chris Valasek, che sono due esperti di sicurezza americani diventati noti questa estate, ne abbiamo parlato anche 2024, per aver dimostrato che era possibile prendere possesso di una Jeep, di un'automobile, connessa ad internet, sollevando molti dubbi sulla sicurezza delle auto connesse e costringendo Fiat Chrysler a richiamare negli Stati Uniti 1,4 milioni di veicoli per installare un aggiornamento software. Bene, questi due personaggi, questi due esperti, sono stati assunti da Uber, entreranno in servizio la prossima settimana e andranno a lavorare all'Advanced Technologies Center che Uber ha aperto a Pittsburgh da pochi mesi e dove lavorano decine di esperti di veicoli autonomi. Digital News. Un'ultima notizia, Google ha lanciato YouTube Gaming, una sezione di YouTube dove è possibile vedere giocatori di videogame che trasmettono in streaming le proprie sessioni di gioco, le proprie performance di gioco. Sono migliaia quelli che si riprendono mentre giocano e milioni quelli che li guardano. E il mondo è bello anche perché è vario. Allora, la principale piattaforma per questo tipo di attività è Twitch, che proprio un anno fa è stato comprato da Amazon per la bellezza di 970 milioni di dollari. Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, adesso parliamo dei futuri voli nello spazio, quelli che entro due anni dovrebbe fare Virgin Galactic. Ci sono anche dei competitor, non è l'unica società, ma probabilmente è la più avanti con i progetti. Gli aerei di Virgin Galactic effettueranno voli suborbitali sui quali per qualche minuto si proverà la sensazione di assenza di gravità. Si vedrà la curvatura della Terra più o meno come la vedono gli astronauti, un po' più bassi, però insomma siamo su quei livelli. Uno dei nuovi piloti di Virgin Galactic sarà Nicola Pecile, un ex pilota dell'aeronautica militare italiana che da 4 anni lavora al National Test Pilot School del deserto del Mojave in California, che è l'unica scuola civile al mondo per piloti collaudatori. Quale sarà il suo ruolo, Pecile, nei prossimi anni in Virgin Galactic? Ma io entrerò alla Virgin alla metà di settembre, è di fatto inizialmente verrà impiegato come pilota collaudatore per completare la certificazione del programma di prova che è già iniziato da parecchi anni. E l'idea è di riprendere a volare appena possibile quando la seconda navetta sarà pronta, perché come probabilmente saprete lo scorso ottobre c'è stato l'incidente della prima che è stata persa, con purtroppo la morte anche del copilota. Quindi la seconda è in fase di completamento e dovrebbe essere pronta a volare per la fine di quest'anno. E quindi nel prossimo anno, quindi in tutto il 2016, dovremmo essere in grado di completare l'inviluppo fino a raggiungere il target finale, che è appunto di volare in suborbita con la navetta Spaceship 2. Dopodiché nel 2017, ma queste sono date ovviamente molto indicative, dipende da come andrà il programma di completamento della certificazione del prossimo anno, si partirà con le operazioni vere e proprie in cui i passeggeri, che già ne abbiamo circa 700 che hanno aderito al programma, verranno da noi e faranno i voli appunto in suborbita con la navetta che è stata sviluppata e certificata nel prossimo futuro. Questo sarà per lei un lavoro full time o continuerà a fare? Adesso lei insegna ad una scuola per collaudatori, giusto? Esatto. Io sono alla National Test Pilot School, che è ubicata qui a Mojave, in California. Di fatto c'era proprio a poche centinaia di metri un'organizzazione dall'altra. No, non continuerò a lavorare qui, ma ovviamente il lavoro dall'altra parte sarà full time, richiede molta dedizione e tante ore di attenzione, quindi non avrò purtroppo la possibilità di fare entrambe le cose. La mia esperienza qui alla National Test Pilot School è stata notevole negli ultimi 4 anni, ho avuto modo di interagire un po' con molte realtà di varie nazioni al mondo ed è stata un'esperienza unica e molto interessante. Purtroppo però non la potrò continuare in quanto appunto dovendo andare alla Virgin Galactic di fatto mi ritroverò ad essere estremamente impegnato con il programma. Le faccio una domanda proprio da uomo della strada, molto curioso di questo mondo affascinante sia dell'aeronautica diciamo normale tra virgolette, sia di questa che arriverà tra pochi anni appunto, che andrà in volo suborbitale. Non c'è nessun timore da parte sua, visto anche appunto questo incidente che è appena accaduto da pochi mesi? Ma no, ovviamente i timori ci sono sempre. Come pilota collaudatore sarei sciocco a dire che non c'è preoccupazione, perché è forse fa parte della natura del pilota collaudatore sapere i rischi a cui uno va incontro, però allo stesso tempo si cerca anche di mitigare il rischio con la conoscenza e con le procedure che insomma sono note nel mondo del flight testing che utilizziamo normalmente. Quindi ovviamente c'è un po' di apprensione, come è giusto che ci sia, però penso che il programma è di assoluta eccellenza tecnica. L'incidente che c'è stato l'anno scorso in seguito all'indagine che è uscita proprio circa 2 o 3 settimane fa ha dimostrato che purtroppo l'incidente è stato causato da un errore umano e la bontà del veicolo è assolutamente garantita al momento dalle varie autorità che hanno fatto parte a questa indagine. Quindi con la conoscenza che c'è sul sistema e con la comprensione che ovviamente i rischi ci saranno un po' sempre quando si va per aria, comunque sono abbastanza tranquillo sul fatto che il programma sarà di successo e spero appunto di dare il mio contributo tecnico al meglio delle mie capacità sul completamento di questo programma. Le faccio un'ultima domanda. Quanti saranno i piloti che parteciperanno a questa fase di sviluppo a Virgin Galactic? Al momento ce n'erano 5 in Virgin, io sono il 6º, ce ne sarà un altro che è stato selezionato insieme a me, che però raggiungerà la Virgin non prima del mese di novembre, e quindi fra un paio di mesi saprete anche chi è, però al momento saremo in 7, e ovviamente se il programma, come penso, succederà senza problemi, avrà successo. Poi quando la compagnia diventerà operativa al 100%, sicuramente ci sarà la necessità di espandere il corpo dei piloti, quindi probabilmente altri piloti verranno poi selezionati per questo impiego. Ovviamente probabilmente saranno molto simili come profilo al mio, nel senso che saranno quasi sicuramente dei piloti collaudatori sperimentatori, perché la tipologia di volo richiede una certa expertise tecnica che è unica, quindi il pilota che vola una navetta del genere non può avere le sole conoscenze del pilota regolare di linea di un qualunque velivolo commerciale, quindi l'esperienza, il background tecnico è assolutamente necessario dal punto di vista della sperimentazione e del collaudo per poter volare un veicolo del genere. In realtà quella non era l'ultima domanda, questa è l'ultima domanda, prometto. Lei ci ha detto che ci vogliono insomma competenze tecniche piuttosto elevate, lei ce le ha, il suo curriculum parla da solo, lei è stato 20 anni in aeronautica militare, i piloti italiani sono particolarmente bravi? Guardi, adesso non voglio apparire di parte, però sì, è vero, siamo particolarmente bravi in Italia e glielo posso assicurare perché la mia esperienza qui alla National Test Pilot School in questi anni mi ha permesso di vedere piloti e ingegneri che vengono da varie nazioni del mondo, inclusa addirittura la Cina, che ovviamente ha un approccio culturale all'aviazione molto diverso dal nostro, del mondo occidentale. E per cui vi posso assicurare che i nostri piloti non hanno assolutamente nulla da invidiare agli altri, anzi di solito sono quelli che eccellono senza nessun problema durante i corsi che forniamo qua, e così come gli ingegneri. Quindi abbiamo delle competenze nel mondo aeronautico in Italia che sono notevoli, una nicchia che tra l'altro la gente probabilmente non sa, ma di fatto i risultati che abbiamo come nazione, sia come aeronautica militare ma anche come aviazione commerciale, abbiamo sempre sformato dei piloti notevoli, quindi da quel punto di vista sì, mi sento di rispondere con molta certezza che sì, siamo effettivamente, abbiamo effettivamente qualcosa in più rispetto agli altri. Bene, io la ringrazio, grazie per la disponibilità, complimenti e buon lavoro, buon volo. Grazie a voi, e restiamo in contatto e ci aggiorneremo poi sul programma. Molto volentieri, a presto allora. Grazie. Adesso cambiamo argomento, parliamo della digitalizzazione delle marine italiane, intese come porti turistici. Una buona parte di italiani usa la barca, ha una barca, magari una piccola barca, oppure prende a noleggio una barca. Insomma, siamo un paese del resto con migliaia di chilometri di costa, molto mare, quindi e questa è un'attività che coinvolge una buona parte della popolazione. Si dice, secondo alcuni dati, che più o meno un terzo degli italiani va in barca, e per una parte di questi italiani diciamo che le barche sono anche particolarmente pregiate. Comunque, una delle preoccupazioni di chi va in barca durante l'estate è riuscire a prenotare un posto per parcheggiare la barca, per ormeggiare la barca durante le soste nei porti turistici. Saluto Alessandro Sestini, che è amministratore delegato e fondatore di Marina Now. Benvenuto a 2024. Grazie. Il vostro è un sistema di prenotazione dei posti barca. Potremmo dire che fosse, diciamo, sulla terraferma, sarebbe un sistema per prenotare i parcheggi. Ne esistono anche, ne abbiamo parlato a 2024, di sistemi per prenotare i parcheggi. Il vostro che cos'è? Marina Now che cosa fa? Marina Now praticamente dà la possibilità a tutti i naviganti di prenotare un posto barca nel Mediterraneo. Nel nostro sistema ci sono all'incirca 1300 marine inserite. Le marine possono gestire il proprio account in piena autonomia, inserendo listini e rispondendo direttamente alle richieste degli utenti. Fare una prenotazione è semplicissimo, basta inserire le date e le dimensioni dell'imbarcazione, e a questo punto l'utente riceverà un preventivo. Dopodiché, con un semplice pagamento online, si può concludere la prenotazione. Il cliente riceve la prenotazione con il riepilogo e i dettagli per arrivare al porto. Allo stesso tempo la Marina riceverà tutti i dettagli della prenotazione che rimarranno memorizzati sia nel manager che noi diamo in utilizzo gratuito alla Marina, sia per mail. Normalmente senza, diciamo, la digitalizzazione che voi proponete, come funziona tutto questo rapporto, dialogo tra il diportista e la Marina? Il problema principale per un diportista è quello di riuscire a contattare una marina e farsi dare un preventivo. Ci può essere il problema, ad esempio, che molte marine non sono molto conosciute, quindi la difficile reperibilità del contatto, oppure in quel momento non sono in ufficio, quindi non hanno un servizio 24 ore su 24. Invece, col nostro sistema, le prenotazioni possono essere fatte nell'arco delle 24 ore. Altro problema che risolviamo invece alla Marina è il problema dell'incasso, perché attualmente un diportista può prenotare un posto barca e poi non presentarsi sulla Marina. Certo, uno prenota un posto e poi se non si presenta non sa come prendere i soldi. Cioè, ha tenuto po' occupato un posto senza poi avere l'incasso. Risolvete anche un problema di carta, cioè oggi molte delle cose che vengono fatte, io non conosco il mondo dei porti, delle marine, delle barche, però immagino che giri qualche pezzo di carta. Sì, abbiamo risolto all'inizio con Marina Now il problema della prenotazione del posto barca. Ora c'è un altro problema che è quello della documentazione che deve essere spedita ai vari enti. Questo lo facciamo in partnership con Navigo Toscana e risolviamo, appunto come dicevi tu prima, tra un mese partirà la sperimentazione per inviare la documentazione in tempo reale una volta fatta la prenotazione ai vari enti, quindi Marina, Capitanerie e autorità portuali. Daremo anche la possibilità di fare i pagamenti delle varie tasse online. Questo darà un netto risparmio di carta perché sarà tutto digitalizzato e nonché un risparmio di tempi nei processi. Attualmente bisogna andare praticamente sbarcare dall'imbarcazione, andare alla marina, andare all'autorità portuale e consegnarti la documentazione manualmente. Sì, certo. Stiamo parlando di che tipo di barca in questo caso? In questo caso parliamo di yacht, cioè quelle che vengono definite navi da diporto, le imbarcazioni superiori ai 24 metri. Stiamo parlando anche di navi commerciali? No, in questo caso il nostro servizio non è adibito alle navi commerciali. Noi ci occupiamo sostanzialmente di marine e portualità privata, quindi non navi cargo per intenderci. Senti, esiste anche l'app? Sì, abbiamo due applicazioni, una per Android e una per iPhone. Anche qua si possono ovviamente fare le prenotazioni, si può pagare, si possono anche caricare i posti barca direttamente dall'applicazione e pubblicarli online. In questo periodo stiamo dando risalto anche alle prenotazioni annuali, perché per la Marina è molto importante anche coprire il periodo invernale e abbiamo un gran numero di richieste per i periodi invernali, un po' diciamo controtendenza con quello che tutti pensano che questo settore sia solo stagionale. Sì. Senti, Infatti abbiamo dedicato. normalmente una prenotazione viene fatta quando? Cioè, che ne so, un giorno prima, 2 giorni prima, un'ora prima? Anche qui diciamo abbiamo una varietà. Allora, per quanto riguarda il periodo estivo, le prenotazioni sono molto last minute, quindi vengono fatte sotto data anche perché magari uno è in crociera e si vuole fermare in una determinata località. Invece, per quanto riguarda le prenotazioni invernali, vengono fatte con tempo, quindi la richiesta viene fatta e poi si conclude all'incirca 1 o 2 mesi dopo. Senti, voi fornite che tipo di servizio, prodotto, software alle marine? Io immagino che molti, adesso noi li chiamiamo marine, normalmente chi non si occupa di questo business li chiama porti. Turistici allora, Esatto, il porto porti turistici. turistico. Immagino che molti abbiano dei gestionali, ormai software per gestire tutto quello che succede, fatture, clienti, bla bla bla. Voi Sì, che cosa fornite? allora, sì, le marine più strutturate diciamo hanno tutte un gestionale, poi in realtà gli approdi più piccoli non lo hanno. Noi sostanzialmente forniamo un sistema di integrazione con delle API che ci permette di avere in tempo reale disponibilità e prezzi senza che la marina faccia un doppio lavoro inserendo le informazioni anche sul nostro portale. Certo, quindi se uno ha 10 posti barca e gliene vengono prenotati 9, automaticamente c'è la disponibilità di uno. Esatto, sì, il sistema decrementa in maniera automatica Un po' come succede per i sistemi di prenotazione degli alberghi. È proprio lo stesso sistema, è lo stesso sistema che può essere utilizzato tramite booking.com o Airbnb per i privati. Sì. Senti, il modello di business come è strutturato? Cioè chi paga per che cosa? Noi sostanzialmente prendiamo una fee dalla marina, quindi il cliente che prenota da noi non avrà nessun costo aggiuntivo, i costi sono quelli che fornisce la marina e quindi se la marina fornisce sconti noi forniamo anche lo sconto. Non viene fatto nessun tipo di ricarico sostanzialmente per l'utilizzatore del nostro servizio. Questa modalità di prenotazione, perché se uno pensa al mondo degli hotel, visto che abbiamo fatto l'esempio degli hotel, oramai diciamo che buona parte delle prenotazioni viene fatta via internet o comunque si basa su siti internet che servono anche per conoscere l'hotel, per avere un'idea, poi magari uno fa una telefonata, però diciamo che internet oramai una parte molto importante. Per quanto riguarda i porti, com'è la situazione in Italia e anche negli altri paesi, visto che il vostro mercato è il Mediterraneo, giusto? Esatto, il nostro mercato è il Mediterraneo. Per quanto riguarda i porti, sta diventando importante. Quando abbiamo iniziato c'era qualche perplessità perché diciamo che era un sistema relativamente nuovo per il mondo. Attualmente le marine si iscrivono in maniera automatica sul nostro sistema e il numero di prenotazioni è cresciuto in maniera esponenziale. Dall'anno scorso a quest'anno abbiamo 5 volte tanto le richieste. Quindi avete 1.300 porti dopo 3 anni di business. Quanti sono i porti potenziali però? No, 1.300 porti sono i porti caricati sul sistema. Ne abbiamo 400, all'incirca 400 in instant booking, quindi che proprio utilizzano il nostro sistema. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare a far utilizzare il sistema in maniera automatica a tutti quanti. Quegli altri, come funziona? Gli altri sostanzialmente ricevono una richiesta di preventivo e possono rispondere al cliente. Dopodiché, dopo la prima prenotazione, si affiliano con il nostro sistema. Ok. Senti, in generale, diciamo, il mercato potenziale di quanti porti turistici è fatto nel Mediterraneo? Allora, sul Mediterraneo siamo coperti abbastanza bene. Il mercato è di 1.500. L'obiettivo dell'azienda è consolidarsi nel Mediterraneo per poi andare fuori dal Mediterraneo, quindi fare Nord Europa, America, quindi Caraibi negli anni successivi. Si parla all'incirca di 15.000 porti. Senti, se guardiamo al Mediterraneo, che è il vostro appunto mercato di riferimento, i paesi che usano di più questi sistemi, che sono tecnologicamente più avanzati, quali sono? Sicuramente l'Italia. La Spagna e la Francia sono le nazioni che sono più avanti da questo punto di vista, però sta recuperando abbastanza bene la Turchia e anche la Croazia. Ecco, dovendo fare una classifica, direi Italia, Spagna, Francia, Turchia e Croazia. Bene, ringrazio Alessandro Sostini per essere stato con noi. Buon lavoro Alessandro, a presto. Grazie, a presto. Chiudiamo questa puntata di 2024 per correttezza e soprattutto per trasparenza nei confronti degli ascoltatori di 2024. Vi volevo informare di due cose. Allora, ho contattato Hawkeye Innovations, che è la società inglese che fornisce il sistema di verifica dei gol sui campi della Serie A. Allora, pare che finora non abbiano tempo da dedicarci perché sono impegnati sempre sui campi di calcio. Mi sono sembrati questi inglesi, parlato direttamente con la casa madre britannica, molto poco flessibili. Comunque io ci riprovo, perché è comunque interessante questo sistema che prevede che ci siano almeno 7 telecamere, videocamere, che non sono posizionate come avevo pensato in principio sulla porta, ma sono posizionate molto distanti, spesso sotto la copertura dello stadio, puntano verso la porta e riescono a calcolare al millimetro se una palla entra o esce dalla dalla linea di porta. Hawkeyes fornisce tecnologie di questo genere anche per effetti televisivi, quegli effetti in cui si vede magari il replay virtuale di una palla anche in altri sport, non solo nel calcio, che ne so, nel tennis, che è uno sport dove spesso bisogna vedere se la palla ha colpito la linea oppure se è uscita dal campo. Insomma, è una società piuttosto attiva in vari sport, quindi era interessante fare una chiacchierata con uno dei loro esperti. Poi mi sono scambiato parecchie email quest'estate con David Vincenzetti, che è uno dei fondatori di Hacking Team, al quale ho proposto un'intervista, perché ho detto, ci siamo sentiti per un'intervista qualche anno fa in cui avete parlato, insomma, delle vostre tecnologie, e adesso che le cose non vanno tanto bene dovete, insomma, avere la stessa disponibilità all'intervista. Allora, finora mi ha risposto che lavora 16 ore al giorno, 7 giorni su 7, e non c'è tempo per l'intervista. Quindi, allora, Hacking Team mi ha scritto una lunga email, ma io gli ho detto, ma noi facciamo la radio e quindi ho bisogno di persone che parlano. Comunque, tra le varie cose che mi hanno detto, loro ritengono di poter fornire una nuova versione del software a breve. Vedremo quanto a breve, ma soprattutto vedremo poi se saranno in grado di ricostruire la fiducia che è stata disintegrata da quello che è successo delle forze dell'ordine, dell'intelligence in poi in tutto il mondo. Ricordiamo che Hacking Team e che i sistemi di Hacking Team, che fornisce o forniva software a polizia e intelligence di molti paesi del mondo, Italia compresa, sistemi per introdursi negli smartphone o nei computer di chiunque. Allora, a luglio i sistemi di Hacking Team sono stati compromessi da un attacco o da un sabotaggio interno, alcuni dicono, sarà poi la magistratura a scoprire come sono andate le cose. Tutti questi dati sono finiti su internet, sono finiti online molti giga di materiale, sono stati pubblicati su Wikileaks 1 milione di documenti, sono finiti online 400 giga di dati e soprattutto il codice sorgente del software, che a questo punto è compromesso ed è fuori controllo. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi. Questo è 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi per qualsiasi motivo a 2024@radio24.it. Mi scuso con gli ascoltatori che non hanno ancora ricevuto una risposta, tentiamo di rispondere a tutti, però attenzione, non rispondiamo a chi ci chiede scusi, ho un problema al software del mio computer e volevo una soluzione. A distanza queste cose sono un po' complicate, un po' difficoltose. Bene, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.